Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, il format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Oggi parleremo di convivenze curiose, inedite ma possibili tra umani e non umani, grazie alla storia di Anna e Gianluca, che vivono con molti animali, tra i quali spicca Angiolino, detto Pollo, un magnifico gallo dalla voce potentissima. Poi vi presenteremo un libro importante per capire i tanti collegamenti tra la questione animale e altre importanti questioni del nostro tempo. E infine vi daremo tante notizie di attualità commentate, come sempre, dal nostro punto di vista animalista, antispecista e vegan. Scientifico è Homo sapiens, definizione tassonomica dell'essere umano, e quello che chiamiamo essere umano fa parte a pieno titolo del regno animale. Appartiene infatti al genere Homo, alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei primati. E chi ha studiato un minimo di biologia sa che la vita umana è partita dall'acqua e si è evoluta nei millenni. Spugne, molluschi, insetti, pesci, rettili, grandi dinosauri e via via, fino a cavalli, balene e finalmente le scimmie antropomorfe e gli ominidi, dai quali discendiamo e dai quali, diciamo così, ci siamo distinti o differenziati nel periodo detto Pleistocene. La nostra discendenza e piena appartenenza al regno animale, però, crea sempre maggiori imbarazzi e sempre di più l'umano, specie quello inurbato, dimentica la sua natura animale e la rinnega tutte le volte possibili, vivendo come un fastidio le altre forme di vita. Non è sicuramente così per Anna e Gianluca, che siamo tornati a trovare dopo alcuni anni per vedere come sta il loro compagno di vita Angiolino, detto Pollo, che si è inserito molto bene, non solo con loro, ma anche con tutti gli altri animali di casa. Come vedi, vivace, chiacchiera. Lui sta bene, a parte il problema alle zampe, che insomma è nato con questo problema, non assorbiva bene le vitamine, per cui all'inizio era rachitico, poi l'abbiamo salvato, però gli è rimasto sempre un po' di difficoltà, insomma, ad avere le zampe sane. Ma per il resto se la cava perfettamente, lui compensa in altro modo, insomma. E sono arrivate due galline, una l'abbiamo chiamata Filomena e un'altra Amelia. Sono state, diciamo così, liberate da una situazione di cattività estrema, quindi hanno il becco tagliato, hanno un sacco di problemi fisici e insomma dobbiamo curarle continuamente, sono molto delicate, molto fragili, probabilmente anche nutrite sempre con cibi estremamente carichi di nutrimento per farle crescere velocemente, piene di antibiotici, di farmaci, per cui appena sono arrivate qui in un primo momento abbiamo avuto una grossa difficoltà ad allevarle qui da noi, insomma libere, con cibi naturali, così, perché loro, il loro corpo era abituato a mangiare roba potentissima, super pompati, insomma, per fare uova, per crescere velocemente, e si tengono, si fanno una gran compagnia. Poi Pollo è un padrone di casa perfetto. E lui praticamente, quando diamo da mangiare, tocca il cibo solo per assaggiarlo, dopodiché lo rimette giù e aspetta che lo mangino prima le galline, quando hanno smesso loro allora mangia lui. È capace di stare digiuno se le galline non lasciano nulla. Ha un ruolo importantissimo nella vita delle galline, perché poi le difende se c'è un minimo problema dall'allarme, fortissimo tra l'altro, sveglia tutti se stanno dormendo, tutti bisogna correre per vedere che cosa succede, altrimenti lui non smette di sbraitare, di dire correte, correte, c'è un problema. E di solito di che problema si tratta? Ma se passa un animale troppo vicino che alle galline fa un po' paura, oppure se c'è un motore di qualcuno che taglia l'erba troppo vicino, oppure se una gallina vuole andare nel cestino a far l'uovo ma ce n'è già un'altra, allora anche per questo danno l'allarme, insomma, così lui partecipa a tutti i loro allarmi, oltre a cantare dalla mattina alla sera. Lui canta prima dell'alba. Fra l'altro passano parola tra tutti i galli della vallata, e prima dell'alba, poi canta a volte durante la mattina, dopo pranzo, nel primo pomeriggio mentre tutti riposano, e poi canta la sera prima del tramonto. E se c'è qualche novità, qualche motivo particolare, canta anche durante il giorno. I vicini non hanno mai assolutamente protestato, perché insomma in campagna uno può anche aspettarsi che prima o poi arrivi un gallo che canta, anche se lui a volte esagera, perché tra gli allarmi e il cantare è parecchio presente vocalmente. Come vivono la loro giornata? Ora vedo che in questo momento Filomena sta facendo un bagno di terra. Pollo vuole scendere. Ecco, è andato. E l'ha raggiunta, ha raggiunto, sì. Filomena. Sì, l'ha anche brontolata perché era lì da sola, invece prima deve valutare lui il posto se va bene. È un po' paternalista. Sì, veramente un po' troppo presente nella vita delle galline. E non altro da fare. Il movimento di liberazione femminile tra le galline non ha ancora fatto breccia. No, io glielo insegno alle galline a ribellarsi. Prendo sempre le parti delle galline. Allora, ci siamo avvicinati alla gallina che si chiama Filomena. Ci siamo avvicinati a Filomena e Pollo si è interposto, si è messo in mezzo e mi ha fatto una specie di danza intorno, ha fatto un cerchio intorno a me, come dire non ti avvicinare, stai lì, ti tengo d'occhio, qui il padrone sono io, il capo sono io e questa gallina è mia moglie, la difendo. Sì. È stato molto assertivo. E anche molto chiaro, Sì, cioè, sì, ha sì. Un linguaggio assolutamente comprensibile, sì. Non c'è bisogno di tante parole. Abbiamo costruito un pollaio a prova di volpe, almeno da tanti anni. Durante la notte vengono ricoverate in questo pollaio con una casina di legno, così, dove c'è anche il cestino dove fanno le uova, se vogliono andare a fare le uova. E durante il giorno poi apriamo il pollaio e sono liberi di razzolare, di andare dove gli pare, anche se diciamo, essendo così abituati alla nostra presenza, loro prediligono stare dove siamo noi, come cani, naturalmente. Non sono assolutamente diversi dagli altri animali della casa, quindi dove siamo noi sono anche loro di solito. Non vanno tanto in giro, come puoi vedere, sono vicino a noi. Adesso ci avviciniamo al pollaio a prova di volpe. Dentro c'è un bellissimo cestino con un uovo che ora fotograferemo. È un uovo finto. È finto? Sì. Come mai? Perché col caldo così non gliele lasciamo le uova tanti giorni, quelle che fanno via via. E poi in questo periodo ne abbiamo bisogno per la gallina che è convalescente. E quindi metto quello perché per loro è un riferimento, sanno che devono andare lì. Se vogliono farlo, lo fanno lì. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. E nel pomeriggio, quando il sole ci nutriva, di tanto in tanto un grido copriva le distanze. E l'aria delle cose diventava irreale. Mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via, da queste sponde. Portami lontano sulle onde. A wonderful summer on a solitary beach. Is the sea a grand hotel sky magic? Mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Da queste sponde. Abbiamo raccontato all'inizio del mese la storia di Tornasol, il coraggioso cavallo che ha messo in crisi l'organizzazione del Palio di Siena e costretto migliaia di persone ad aspettare sotto il sole per un'ora e mezzo la via della corsa nella piazza del campo. Tornasol si è rifiutato di obbedire e non ha voluto partecipare a quel violento e anacronistico rito che è chiamato palio. La sua vicenda ha riportato in primo piano la condizione dei cavalli al palio, una condizione che ha molte assonanze con quella dei gladiatori, i prigionieri costretti a combattere nelle arene romane per il sollazzo delle oligarchie del tempo. Da Siena arriva ora un'altra notizia riguardante il palio e i cavalli che vi sono impiegati, perché il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio uno dei fantini più conosciuti, Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, con il figlio Enrico, il veterinario Mauro Benedetti e l'altro fantino, Sebastiano Murtas. Le accuse, a vario titolo, sono di maltrattamento di animali, falso ideologico e violazione di sigilli. Secondo i magistrati che hanno indagato, sarebbero stati manomessi i microchip identificativi di 3 cavalli da corsa al fine di spacciarli come anglo-arabi, cioè quei cavalli che vengono impiegati nel palio. In aggiunta, sarebbero stati somministrati agli animali dei cocktail di farmaci, per lo più antinfiammatori e antidolorifici. Uno dei 3 cavalli sarebbe morto in allenamento il 9 aprile 2015. Il processo a Trecciolino e agli altri 3 rinviati a giudizio sarà celebrato il 23 novembre. Mm. momento è scoppiato un nuovo caso politico attorno alla presenza dei lupi. La regione ha infatti annunciato un piano straordinario, in deroga alla normativa nazionale, che prevederebbe la cattura e il confinamento in aree recintate degli esemplari presenti nella regione o di una parte di essi. Il numero di lupi che vivono liberi in Veneto in verità è piuttosto esiguo. Quelli ufficialmente accertati, come fanno notare l'ENPA e altre associazioni, sono appena 14 o forse 16. E tuttavia le lamentele degli allevatori per i danni subiti dalle loro aziende a causa della predazione sono state sufficienti a determinare un clima di emergenza e quindi l'avvio di una campagna che poi ha spinto la giunta del leghista Luca Zaia ad accogliere la richiesta di eliminare in qualche modo i lupi. E dire che la Regione Veneto solo qualche mese fa è stata fra quelle che hanno bloccato il piano nazionale di gestione dei lupi perché prevedeva in uno dei suoi punti la possibilità di uccidere una parte della popolazione di selvatici. Ora in verità non si parla di uccisione, ma di cattura e confinamento in recinti. E però per animali selvatici con l'indole dei lupi sarebbe una sentenza di morte etologica. Il Consiglio regionale ha anche approvato una mozione per l'uscita della regione dal piano Life Wolf Alps, il progetto europeo di ripopolamento che ha permesso il ritorno dei lupi in libertà nell'area. Siamo quindi alle prese con un nuovo episodio di guerra ai selvatici, un filone che in questa stagione politica, tutta giocata sull'allarmismo e la paura del diverso, sembra elettoralmente interessante, come si è visto anche in altre zone del paese. Contro questi progetti è partita una forte mobilitazione, con le associazioni animaliste in prima fila. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ha messo a fuoco l'uso strumentale di questa finta emergenza, facendo notare sarcasticamente come una regione estesa su oltre 38.000 km quadrati di superficie vada in crisi per una dozzina di lupi o poco più, mentre la LAV ha accusato la stessa amministrazione regionale di inefficienza per non aver avviato per tempo il piano di recinzione dei pascoli a rischio, unica misura efficace per evitare le predazioni delle greggi. Eboli, i randagi approdano in carcere, i meticci selezionati in un canile su basi di caratteristiche e attitudini individuali vengono condotti in carcere e sotto la guida di un'equipe di esperti interagiscono con gli ospiti della struttura. Si tratta di un progetto già attuato con successo all'estero, in Spagna e in Brasile, mentre in Italia prende corpo per la prima volta presso la casa di reclusione di Eboli. L'obiettivo è quello di insegnare ai detenuti come socializzare i cani ospitati nei canili in modo da riuscire poi a trovare per questi cani delle buone adozioni. A proporlo e a metterlo in pratica è una cooperativa locale che si occupa di cani e di canili in collaborazione con Alberto Ayala, un esperto spagnolo in attività assistite con gli animali, presidente dell'associazione Alperro Verde. I cani del canile sono a loro volta in qualche modo dei carcerati, per quanto incolpevoli. Quindi la relazione tra cani e detenuti, questa è la teoria che viene proposta, può essere molto empatica con grandi benefici reciproci. A Roma, per sensibilizzare sui reati contro l'ambiente, negli spazi del Bioparco è stato inaugurato il primo museo ambiente e crimine, il MACRI, realizzato con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui reati che deturpano il nostro territorio. Il museo è intitolato a Danilo Mainardi, il famoso etologo scomparso quest'anno. Ma i veri protagonisti del museo sono gli animali, vittime dell'inquinamento ambientale, degli incendi boschivi, della caccia illegale e del traffico, illegale anch'esso, di animali vivi esotici, di avorio, di pelli, di pellicce e di trofei. Reati che la Fondazione Bioparco spera di raccontare efficacemente ai bambini che il museo ospiterà per educarli al rispetto dell'ambiente. Se ti faccio male, poi ti passerà, tanto il mondo come prima, senza fretta girerà. Non gioco più, me ne vado, non gioco più. Ma davvero non credere ai capricci di una foglia che col vento se ne va. Non gioco più. C'è tra liberazione animale e liberazione umana? Quali sono i meccanismi che generano oppressioni e violenza nei confronti dei più deboli, umani e non umani? Che risposte possiamo dare per costruire una nuova civiltà che possa sorgere dalle ceneri di quella attuale? Questi e molti altri sono i quesiti posti nel libro Verso una società liberata nell'inesistenza dell'individuo, scritto da Fabio Bersani, un attivista antispecista che rappresenta la proposta letteraria di questa settimana. Sentiamo il servizio a cura della nostra Roberta Marino. Sono con Fabio Bersani, appena terminata la presentazione del tuo nuovo libro, Verso una società liberata. Tu dici che questo lavoro non sarebbe potuto esistere senza il contributo di alcuni pensatori. Chi sono e come è avvenuta questa scelta? Sulla base di quali criteri? Questi personaggi sono nell'ordine, poi come compaiono nel libro, Valerio Poccara, Massimo Filippi, Marco Maurizi, Aldo Sottofattori, Marco Guzzi e Jiddu Krishnamurti. Attraverso loro è venuta l'idea di questo libro perché ho trovato un po' tutte queste teorie molto interessanti, ma in qualche modo molto slegate tra di loro, proprio perché questi autori hanno un filo logico comune che ho cercato di collegare nel corso di questo libro, finendo con un settimo capitolo che è proprio quello dove c'è la mia congettura, come dice il titolo del libro, che si può andare verso una società liberata nell'inesistenza dell'individuo, cioè vuol dire non avere più quella parte, chiamiamola egoica, che ci permette purtroppo di fare quello che facciamo sia nel mondo, nel confronto del mondo animale che nel mondo, nella parte delle relazioni tra noi esseri umani e la natura, e quindi è un lavoro molto interiore per quanto riguarda, diciamo, l'eliminazione di questa parte egoica in noi. Ecco, in questo ultimo capitolo, riprendendo le tesi dei sei autori precedenti, ho cercato di spiegare come questo possa verificarsi. L'inesistenza dell'individuo in che termini? Nel capitolo quinto, quello di Marco Guzzi, viene spiegato abbastanza bene, no? Nel senso che l'individuo si è formato, è nato, si può dire, un po' con la rivoluzione del Neolitico. Precedentemente a questo periodo l'essere umano per milioni d'anni ha vissuto in armonia col vivente, si sentiva parte della natura e con essa era in buona relazione. Dall'avvento del Neolitico in poi l'essere umano si è sempre di più individualizzato, cristallizzato in un'entità completamente separata dal resto del mondo. Chiaramente questo ha portato dei vantaggi, ha portato alla costruzione delle città, delle civiltà, degli imperi, alla tecnica, ma si è slegato anche completamente da dai legami invece che lo tengono fisicamente con la natura, perché proprio ci riteniamo degli individui completamente estratti dalla natura in cui invece siamo fisicamente immersi. Ci sono appunto vari tipi di approcci portati avanti dai pensatori, c'è l'approccio giuridico, l'approccio filosofico, l'approccio economico, l'approccio sociale, l'approccio anche spirituale, psicologico. Tra tutti questi approcci, quale può essere la proposta per superare l'involuzione a cui è giunta la società? C'è una risposta all'interno del tuo libro? Una sorta di suggerimento lo do, perché quello che noi non possiamo fare veramente nei massimi sistemi, cambiare la società, cambiare i vertici della società, noi come poveri individui singoli non possiamo farlo, però possiamo lavorare molto su noi stessi e questo non ci impedisce nessuno di farlo. Dopodiché, una volta avuto visione e comprensione di come siamo fatti noi stessi, allora potremo incidere nella società in maniera molto più rimarchevole rispetto a quanto possiamo fare con un essere umano non chiarito al suo interno. Why does my soul feel so bad? Why does my heart? E siamo in chiusura, ma non vi salutiamo prima di avervi ricordato le persone che hanno contribuito a realizzare questa puntata: Anna e Gianluca, Angiolino detto Pollo, Fabio Bersani, Roberta Marino, Giuseppe Coco, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.